Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. A questo punto buon Natale, mancano pochi giorni a Natale e vogliamo con questo programma, non dico entrare nel clima natalizio, parliamo sempre di economia, ma parliamo un po' di economia vista in una prospettiva cristiana questa sera, e lo facciamo sulla base di due libri, di due autori, due docenti che hanno raccolto nelle loro pagine la prospettiva dell'economia cristiana attraverso la dottrina sociale della Chiesa. Buonasera Don Maurizio Ormas. Buonasera. Don Maurizio Ormas è consulente del LUCI, dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti di Milano, e docente all'Università Lateranense. Ha scritto il libro Umanesimo Cristiano e Modernità, introduzione alle encicliche sociali, dalla Rerum Novarum alla Caritas in Veritate. E buonasera Luigi Patrini. Buonasera. Luigi Patrini è autore del libro Il realismo di una madre, introduzione alla dottrina sociale della Chiesa, da Leone XIII a Papa Francesco. Luigi Patrini è stato docente dei licei e ora è esperto nella problematica della dottrina sociale della Chiesa. Allora io vorrei chiedere al professor Ormas, a Don Maurizio Ormas, da quando la Chiesa si interessa di società? Si dice la nascita della dottrina sociale della Chiesa è della Rerum Novarum, e nel titolo del suo libro, cioè dalla Rerum Novarum alla Caritas in Veritate, Rerum Novarum che è della fine dell'Ottocento, quindi come mai solo nell'Ottocento la Chiesa ha cominciato a occuparsi di società? Don Maurizio Ormas. Ma in realtà è convenzionale la data della Rerum Novarum, la Chiesa si è sempre occupata di problematiche sociali, basti pensare all'esercizio della carità che ha sollecitato da parte dei cristiani nel corso di tutta la sua storia. Esercitare la carità non vuol dire occuparsi della società, questo è solo un esempio, ma in realtà se ne è occupata in tantissimi altri modi, per esempio affermando la distinzione dei poteri fra potere spirituale e potere temporale, che ha garantito il disincanto del potere, la desacralizzazione del potere, quindi ha posto le premesse di quello che poi sarà l'Occidente. Ecco, in questa prospettiva l'autonomia delle due dimensioni, delle due sfere. Ecco. Anche questa è una questione sociale, oltre che culturale, spirituale, quel che si vuole. Poi ha codificato questo interesse verso la società, possiamo dire forse così, alla fine dell'Ottocento, quando i temi sociali sono diventati importanti, sono diventati imponenti con la rivoluzione industriale, con l'inizio anche delle problematiche politiche legate alla rivoluzione industriale, alla classe operaia, alle teorie marxiste, alle teorie poi liberiste. Quindi la Chiesa si è sentita in dovere di dire qualcosa, però mantenendosi sempre un po' più elevata rispetto alla polemica strettamente politica. Don Maurizio Ormas. Certo, sì. Ha ritenuto di progressivamente codificare, o più ancora che codificare, costituire un corpus delle sue, che progressivamente si è evoluto, delle sue riflessioni circa il modo in cui la storia si evolveva. Quindi ha messo insieme tante riflessioni nelle encicliche che progressivamente sono state pubblicate, ma non solo nelle encicliche, in tante altre prese di posizione anche. Pensiamo al Concilio. Ecco, quindi documenti conciliari, encicliche, messaggi pastorali, radiomessaggi quando la radio era l'unico strumento, poi interventi da parte dei pontefici, però sempre mantenendo un equilibrio, lo dicono esplicitamente le encicliche, mai entrando in termini tecnici. La Chiesa non ha soluzioni tecniche da offrire, ma ha richiami a valori da fare. Questa è stata un po' la linea di fondo, Don Maurizio Ormas. Certo, la Chiesa suggerisce principi di riflessione, aiuta a formulare criteri di giudizio e a identificare delle piste, degli orientamenti per l'azione, ma non è in grado, non può e non è in grado di identificare delle soluzioni tecniche, perché le soluzioni tecniche essa non le può ricavare dalla propria né dai testi della scrittura né dalla storia, dalla sua storia, dal momento che nel corso della storia essa stessa ha concorso a formare culture e civiltà diverse. Ecco, in questa prospettiva Luigi Patrini, autore del libro, ricordiamo Il realismo di una madre, la madre è proprio la Chiesa. Perché il realismo di una madre nel titolo del suo libro? Come diceva Paolo VI, esperta di umanità. La Chiesa è esperta di umanità perché conosce profondamente la natura dell'uomo, lo conosce perché, se posso dire un piccolo inciso, perché gli uomini della Chiesa si confessano e confessano e quindi riconoscono che nell'uomo c'è un desiderio di infinito, un desiderio di bellezza, di bontà, di perfezione se vogliamo, e però l'uomo ha anche coscienza della sua fragilità. Perciò la Chiesa è realista quando suggerisce qualcosa. Certo, come diceva anche Don Ormas, la Chiesa non può dare soluzioni concrete. La Chiesa provoca però la libertà dell'uomo, il quale, sentendo la proposta della Chiesa, deve giocarla nella concretezza della sua vita. E quindi la Chiesa non potrà mai dare suggerimento o norme che vadano bene, perché la Chiesa parla a tutti gli uomini. Però è estremamente realista. Io credo che la cosa più importante sia proprio ascoltare quello che dice la Chiesa, capirlo, cercare di capirlo e quindi conoscerlo, perché se non lo conosci non puoi parlarne. Invece purtroppo tanti parlano oggi della Chiesa ma non se ne innamorano e non conoscono bene, perché per conoscere bisogna leggere, ma bisogna avere anche una disponibilità affettiva. Capire che quello che viene detto è per il nostro bene e provare a giocarlo. In fondo, cosa abbiamo da perdere? Il mondo va tanto male che ascoltare un suggerimento e una proposta è solo segno di intelligenza. Proviamo. Ecco, in questa prospettiva, proprio parlando di questo cammino che ha fatto anche la Chiesa negli ultimi secoli di fronte alle problematiche sociali, c'è indubbiamente anche un cambiamento di prospettiva. Non siamo di fronte a dei dogmi, non siamo di fronte alla proclamazione di verità assolute, siamo di fronte a dei richiami soprattutto. Quindi c'è anche questo senso del cambiamento e del fatto di essere presenti a una realtà che si evolve. Certo, c'è questa coscienza di essere di fronte a una realtà che si evolve, ma quello che la Chiesa dice è una proposta che è una sfida alla nostra libertà. Io credo di insistere su questo, perché nella sostanza la proposta della Chiesa nasce dall'idea che l'uomo che pensa al suo destino è più capace di incidere nella realtà. Direi che proprio la grande sfida della dottrina sociale inizia con Cristo certamente, ma in senso tecnico con Leone XIII, che nella sua Immortale Dei del 1885, quindi 6 anni prima della Rerum Novarum, fa proprio questa osservazione, dice: la Chiesa reca tali e tanti benefici che non recherebbe se pensasse alle cose di questo mondo, proprio perché pensa al destino eterno, sollecita l'uomo a capire che in questo mondo è un po' la sfida stessa di Gesù, no? Cosa serve all'uomo guadagnare il mondo se poi perde l'anima? Questo è il problema. Ecco, a noi dell'anima ci interessa. Ecco, in questo senso vorrei chiedere a Don Maurizio Ormas: nel titolo del suo libro c'è la parola modernità, molto spesso parlando appunto a certi documenti si pensa a documenti un po' superati, un po' sorpassati, non al ritmo con i tempi, ma la dottrina sociale della Chiesa si può dire che è qualcosa di vicino alla modernità? Ma in realtà la dottrina sociale della Chiesa ha sollecitato il mondo a riflettere su questioni che sono modernissime, no? Pensiamo alla sussidiarietà, è stata formulata nella quadragesimo anno del XI, oggi è entrata anche nei trattati istitutivi dell'Unione Europea, e pensiamo all'idea della libertà di educazione, pensiamo all'idea del fatto che il potere politico non ha il diritto, non può diventare totalitario, la lotta al totalitarismo che la Chiesa ha perseguito, ci sono, oppure il butto lì le cose così, certo, come mi vengono in mente, senza un particolare ordine, ma pensiamo per esempio alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, che poi sono stati codificati nella Carta delle Nazioni Unite nel 1948, all'ingerenza umanitaria per tutelare coloro che sono vittime di aggressioni ingiustificate e gravissime. Insomma, ci sono tante cose che è stata proprio la dottrina sociale della Chiesa che ha proposto la riflessione di tutti. Ecco, su questo punto penso che anche Luigi Patrini sia d'accordo. C'è un'attualità anche molto spesso nei documenti della Chiesa che vengono presi come documenti storici, invece sono documenti di estrema attualità. No, l'attualità sta nel fatto che chi legge deve capire e tradurre in opera. Non posso chiedere alla Chiesa di fare quello che devo fare io. È chiaro che questa è la provocazione per tutti gli uomini, ripeto, per tutti a partire dai cristiani, perché sono i cristiani che dicono certe cose e poi devono metterle in pratica. E questa pratica cristiana dovrebbe suscitare il desiderio anche in chi non è cristiano, in chi è un po' restio a pensare che le cose che la Chiesa dice possano essere utili, dovrebbero essere sollecitati i cristiani a provocare, ad affascinare, a far vedere che quello che dicono, perché il tema della sussidiarietà che citava adesso Don Ormas, il tema della libertà di educazione, bisogna far vedere che sono convenienti, che sono più utili per creare un mondo diverso. Questo mondo non va bene, lo vediamo tutti i giorni e continuamente, allora proviamo a cambiarlo. Proviamo a cambiarlo tutti quanti, ognuno al proprio posto, e iniziamo a cambiarlo magari facendo gli auguri di Natale. Che auguri di Natale può fare Don Maurizio Ormas in due parole? Beh, primo augurio che credo sia contenuto nel Natale è il valore dell'umano. L'incarnazione dice che Dio ci tiene all'uomo e che l'umano è meritevole di essere salvato, che Dio lo ritiene meritevole del suo intervento, e quindi tutto ciò di cui è fatta la nostra vita è degno di stima e va visto nella logica della speranza, che non è l'ottimismo, ma certo, è l'attesa che il Signore porti a compimento l'opera che ha iniziato in noi. E il buon Natale di Luigi Patrini? E il buon Natale di Luigi Patrini non può che essere simile a quello di Don Ormas, cioè Dio si interessa dell'uomo, ci ha fatti, perché non possiamo fidarci di lui e credere che quel che ci dice è venuto a dircelo proprio perché la nostra vita sia più degna del nostro destino? Noi siamo fatti per l'eternità, non per morire come i bambini nei cassonetti o come il bambino che è stato ucciso qualche giorno fa, strangolati, buttati in un fosso. Noi siamo fatti per l'eternità e per la vita. Grazie a Luigi Patrini, grazie a Maurizio Ormas. Io ricordo i titoli dei due libri di cui abbiamo parlato, insieme alle loro testimonianze. Don Maurizio Ormas è autore del libro Umanesimo Cristiano e Modernità, Introduzione alle Encicliche Sociali, dalla Rerum Novarum alla Caritas in Veritate, edito dalla Lateran University Press. Sono 204 pagine per 20 euro. Luigi Patrini è autore del libro Il realismo di una madre, Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa da Leone XIII a Papa Francesco, edito da Lindau, 350 pagine, 29 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, buon Natale a tutti voi, buon Natale anche a Paolo Corleoni in regia, a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buon Natale.